Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sono Stefano Dainese, benvenuti a Rock Wave, questo ennesimo appuntamento con la musica dal vivo. Abbiamo tanti musicisti che ci fanno l'onore e il piacere di venire a trovarci qui in studio da altri paesi, da altre regioni. Questa sera abbiamo un giovane, si può dire, sì, dai, posso dirlo, che viene dalla Toscana, si chiama Cesare Carugi. Ciao. Ti do il benvenuto nel nostro studio. Grazie. E Cesare è qui per parlarci del suo nuovo album, penso abbastanza nuovo. Quant'è che è uscito? Ufficialmente è uscito il 18 novembre in digital download, però chiaramente poi le copie sono arrivate dopo, comunque novembre-dicembre, insomma fine 2011. Cioè, è nuovo, insomma. Nuovo. Si intitola Here's to the Road e già dal titolo si capisce che Cesare canta in inglese. Sì. Vabbè, io direi, come facciamo sempre, ascoltiamo una canzone, certo. Intanto, così più che altro per gli ascoltatori che possono farsi un'idea di quello che tu fai. Poi avremo tempo e modo di approfondire e parlare di questo album e di quello che fai anche sul palco e certo. Altre cose. Il brano che hai scelto tu, peraltro, come apertura, si intitola 32 Springs. Sì, 32 Springs, che è il brano che ho scelto anche perché, insomma, arrivo da 1-2 giorni con Riccardo Maffoni dal vivo. Riccardo Maffoni duetta con me in questo brano, poi è un brano che è particolarmente sentito anche perché è un brano autobiografico. 32 primavere, l'ho scritto il giorno del mio 32esimo compleanno, non il migliore dei giorni fu quello, mi ricordo, però insomma, è venuto fuori un bel pezzo rock, quindi direi di partire subito sparati. Bene, allora ci ascoltiamo 32 Springs da Cesare Carugi e poi saremo qui in studio con l'autore in persona. Realize where I was. The sun was weak as a cursing ocean buddy. Even the clouds have come all the way. This wall is crying out a new cut of pain. On the run, baby, and I must leave behind those yesterdays. I'm on the run, baby, to 32 springs. There are the days when no one can talk to you. There are the nights when you drift away. There's a part of me here and the other is away from town. It's not today. I'm around it. Rock Wave, l'onda del rock. Allora, le 32 primavere, scritto 32, ora sono diventate 33. Beh, vabbè, insomma, non è che faccia molta differenza, uno più, uno meno, insomma. Beh, i brani di questo disco sono stati scritti in un arco temporale ristretto? Sì, sono stati scritti comunque nel 2000, diciamo, negli ultimi 18 mesi, cioè, insomma, 2010-2011, diciamo, quasi tutti 2010 all'incirca. E 32 Springs è stato scritto il 3 agosto del 2010, quindi è uno degli ultimi che ho scritto. Tu abiti al mare e compie gli anni il 3 agosto, sì. Grigliata in spiaggia con gli amici, ma che, no. Di solito. Vabbè. Questo è il tuo primo album di... il full length, sì, cioè nel senso il primo album con più pezzi, diciamo. Prima ho fatto un EP che è uscito nel 2010, che conteneva 4 brani originali più una cover di Springsteen. Cover di Springsteen è un EP, quindi non è un vero e proprio album, quindi un aperitivo, chiamiamolo aperitivo a questo, che insomma è stato fatto già tutto con un altro criterio. 11 brani, tutti originali, grandi ospiti, quindi insomma è stato fatto in amicizia, comunque, cioè non c'era questa grossa ambizione, insomma, è stato fatto una cosa per divertirsi e è venuta fuori, insomma, non male, dai, non è male come risultato alla fine. I tuoi riferimenti, già il fatto che tu abbia fatto una cover di Springsteen è abbastanza sintomatico, insomma, che il tuo amore è quel rock americano. Sì, diciamo. Sì, sì, rock americano, ma non solo lui, cioè, sennò si sta troppo a focalizzare l'idea di Springsteen comunque come ispirazione massima. In realtà io, guarda, mi piace molto, per esempio, Jackson Browne. Ascolto molto anche Flying Burrito Brothers, cioè comunque l'ispirazione mi è venuta un po' da più parti. Io ho sentito anche Bob Seger. Sì, comunque siamo sempre sull'onda del rock, comunque stradaiolo, però comunque ho preso anche ispirazione, per esempio, da Replacements o da altre cose, tipo anche Pink Floyd, per esempio, cioè Blue Dress, il pezzo, comunque l'ispirazione è arrivata molto comunque dalle sonorità un po' inglesi, dei Pink Floyd, oppure anche dei Clash, cioè comunque ho un po' ammassato tutto e ho messo tutto insieme, cioè, infatti è un disco abbastanza versatile per quello, perché bene o male ogni canzone ha una sua identità precisa, non c'è una canzone che assomiglia a un'altra, cioè, quindi ho unito il blues, il soul, il rock, il folk, anche l'urban rock, il punk, chiamiamolo come vogliamo, perfino anche, diciamo, mainstream pop rock, chiamiamolo, cioè, i generi sono 6.000 comunque, cioè, ho cercato di essere più versatile possibile, più eterogeneo possibile, sì. Ma infatti per quello anche ti ho chiesto se le canzoni sono state scritte in un arco di tempo ristretto, perché appunto essendo il primo disco, a volte uno il primo disco lo fa con le canzoni che ha scritto nell'arco di 10 anni, che va lì nel cassetto in attesa, no? Mentre altri musicisti so che preferiscono invece dire: ok, adesso faccio il disco, scrivo una serie di canzoni, diciamo, insieme, in modo da avere anche una certa, sì, no, invece, coerenza. Sì, infatti. No, perché se io scrivo canzoni ormai da un sacco di anni, quindi, però ho cercato comunque anche di pezzi magari con meno difetti possibili, anche perché io sto molto attento al testo, quindi se prendevo un pezzo di 10 anni fa, magari il testo scritto in un inglese maccheronico, magari un po' scontato, preferito proprio ripartire da zero e mettere su i pezzi, gli ultimi pezzi che avevo scritto, insomma. Bene, dunque tu sei qui con la chitarra, naturalmente, sì. Ti invito a caricarla, diciamo. E così, insomma, ci suoni la prima canzone, eccola qua, la Gibson. Sì, è Gibson, quella da mutuo, perché di solito per comprarla ci vuole un mutuo, però mutuo finalmente estinto, quindi ho festeggiato con una grigliata sulla spiaggia. Sì. Allora, ma come brano io dunque volevo partire con un brano che si chiama Blue Dress, infatti quello di cui ti ho parlato prima, che è un brano che ha una storia, ecco, una cosa proprio di questo disco è che ci sono dentro anche delle storie che sono molto cinematografiche, cioè di solito quando scrivo io vedo anche la scena come si presenta, almeno per me, insomma. Quindi questa è una storia che è ambientata a New York, di una ragazza che uccide un uomo in un appartamento, c'è questo crimine, mentre fuori c'è Times Square che impazza di neon, di tutto. Quindi non è una cosa autobiografica, diciamo. No, per fortuna no. Forse era a New York quel giorno, ma no, quella è un'altra storia. Hai un alibi. Bene, allora ci ascoltiamo dal vivo Cesare Carugi con Blue Dress. Buon ascolto a tutti. Streets at night, the latest gasp, your red fingernails, your waving chest, the alley is a mess. The last dog barks, the alarm clocks are ready to wake everyone up. The shadow on the roof, regret is growing hard. The news on the radio, talk about nothing more. An ambulance cries, the Faribo calls. The words here downtown, I mean blue rainfall. Body's like a statue thrown in the junkyard. The bell chimes hollow, the thunder screams hard. Your lips burn like desert sand. You can't feel the wind when you're around the bend. And your cheap shoes, your feet feel lost. You're small anyway when you take her. There's no trace of life in this dead man's town. So still life on the wall, it's a hunting sound. Blind alley gets dark with no way back. The cold of November numbs your hair. The gun is still there in your hands again. The mist comes down, your blue dress waves. Your trembling mouth has something to say. In the chilly night, your words sound vain. You find no redemption in the flood. The moon is in your eyes and in the smell of blood. Moon is in your eyes and in the smell of blood. E questa era Blue Dress, cinematografica, appunto. Cinematografica. Come Martin Scorsese, molto Martin Scorsesiano. Stavo guardando qua la foto di copertina, che penso sia stata fatta, cioè potrebbe essere stata fatta anche vicino a Cecina. No, no, no, è stata fatta vicino al Po. Ecco, quindi ero in zona sull'argine. Comunque Italia, mentre la foto sul retro... No, la foto sul retro non è mia. Diciamo che è un... come si dice? È una foto presa in prestito. È una di quelle strade... Però il retro del booklet, quella è mia. Ero sulla strada per Chicago. Infatti... Vedo si sposa bene. Insomma, ero on the road anche lì, sì. Ero in Illinois. Stavo venendo via da St. Louis. Bei viaggi. Beh. E leggevo anche i ringraziamenti del disco, ci sono tanti nomi. Sì, io di solito famosi. Cerco sempre di infilare tutti dentro, anche perché bene o male c'è un pezzo di tutti, diciamo, nella mia vita di musica e non. Quindi sai com'è, insomma, lasci fuori uno, poi ne devi lasciare fuori un altro, poi l'altro se la prende, allora infiliamo tutti il più possibile, poi chiaramente alla fine ne ho dimenticato qualcuno, però sai, fa parte inevitabile la vecchiaia ormai che mi vedo parecchi nomi americani anche, sì, come sì. Commander Cody, che... sì, io l'ho ringraziato perché ho aperto per lui una sera, mi fece complimenti perché mi disse, io suonavo da solo, ricordo, mi disse che era una cosa che lui non ce l'avrebbe mai fatta a farcela perché troppo abituato magari a suonare più di uno, però tenere il palco da solo, lui mi disse bravo perché non ce la potrei mai fare io. Beh, molti musicisti mi hanno detto che sono due cose completamente diverse. Assolutamente, ecco, sì. Due. Peraltro, tu hai cominciato suonando in qualche band magari? No, in un duo. Sinceramente, guarda, non ho mai suonato in una band vera e propria. Ho provato, ma... i risultati sono stati abbastanza scarsi, quindi ho mollato subito, però iniziai in un duo io a suonare. Beh, però nel disco suonano altri musicisti, sì, diciamo. Sì, quindi chiaro. Tu dal vivo può anche capitare che sì, anzi ci sto pensando. Ci sto pensando, chiaramente bisogna vedere se la band si presta, diciamo, a voler fare i miei pezzi, perché non è facile oggi trovare una band che comunque ti segua, magari trovi quelli che vogliono fare dei tributi, cose del genere, insomma ce ne sono a quintali, magari trovare quello che invece dice ok, i tuoi pezzi, facciamo i tuoi pezzi, mettiamoci lì, studiamoci, insomma non è facile, quindi insomma, però chissà. Sì, so che è complicata la cosa, molto, insomma, sì, parlando sì, appunto sì. Con tanti musicisti è sempre una situazione difficile da gestire umanamente, sì. Prima che tecnicamente, perché di gente che suona bene adesso se ne trova in maniera relativamente più facile rispetto a una volta sì. Però ora poi ti ripeto, vivere di musica oggi non lo fanno pochissimi, quindi ognuno comunque poi ha il suo lavoro, c'è sempre anche quel discorso. Guarda, mercoledì c'è una serata là, ma io mercoledì sono di turno, quell'altro di turno il giorno dopo, alla fine succede, sì. Purtroppo sì, lo so che è così che funziona. Okay. Ci ascoltiamo un altro brano dal disco, sì. Notavo fra i titoli qualche riferimento geografico, c'è una London Rain, sì. E, Goodbye Graceland, c'è un richiamo Elvis, sì, chiaramente. Sì. Goodbye Graceland, sì, il pensiero, io sono stato due volte a Graceland, quindi negli ultimi sette anni sono stato due volte a Graceland e la canzone è nata perché ho sempre avuto questa ossessione che non ti fanno mai vedere il secondo piano della casa. Dove non è aperto ai visitatori? No, solo il piano terra ti fanno vedere, il primo piano non te lo fanno vedere. Esiste una leggenda che dice che nel primo piano della casa c'è sempre Elvis, che in realtà è ancora vivo. Eh beh, sì. Quindi ho scritto questo pezzo su Graceland, che ci sono dei riferimenti proprio anche proprio oggettivi, perché parlo di una della foto di Priscilla al muro, parlo della piscina, cioè comunque sono tutte cose che a Graceland ci sono davvero, no? queste questi piccoli particolari con il fantasma di Elvis che la notte si materializza e gira per, e gira per la casa, insomma. È stato, ecco, divertente. Abbiamo parlato tanto di questa canzone, invece adesso ne ascoltiamo un'altra che è Caroline. Questa è viva, questa Caroline. No, vabbè, è un personaggio immaginario, quindi, però è una persona, insomma, un po' viscida, chiamiamola, però è immaginaria. Quindi anche questa è una storia un po' cinematografica, cioè una storia che parla di redenzione e di perdere le occasioni, cioè comunque di quando ti vuoi redimere alla fine scopri che hai perso veramente un'occasione, cioè, quindi è una storia abbastanza amara, perché oltretutto c'è anche non c'è un happy ending, anzi c'è proprio una, finisce anche male come storia. Il pezzo, forse il pezzo che più, a cui più tengo, diciamo, del disco, perché comunque è stata realizzata molto bene. C'è un grande violinista che è Fulvio Renzi, che fa una parte di violino veramente strepitosa. C'è Giulia Millante ai cori, quindi è venuta su molto bene. Infatti forse il pezzo su cui abbiamo messo più impegno, quindi soddisfatto al 100%. Sì. Bene, allora Caroline, sempre da Cesare Carugi. Tonight thing, the creaking of the trees, the sharpness of the glass, the ghost memories, the indicator sounds, the noise like the rain, the spark is the flame. The silence like hell crawls down through your skin, the snowflakes like feathers dancing in the cold wind. We follow the road to the desert without a sound in a pool of blood. I saw you last night while the church bells rang. In the chill of the winter, your eyes looked so sad. While you dry your tears, the road gets blind. This is your life, Caroline. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, il violinista, bisogna ricordarlo, Fulvio Renzi. A T. Renzi. Anche sì, infatti stavo cercando di capire. Il nome completo è Fulvio A. T. Renzi. Sì, sì. Anzi, oltretutto, guarda, ne approfitto per dirlo che sta facendo un progetto molto importante, si chiama Restiamo Umani, sulle questioni, ora io non me ne intendo di politica, però sulle questioni di Israele, Hamas, queste cose, Palestina, quindi anche Medio uno, Oriente, insomma. Medio Oriente, sì, insomma, io sono a zero, sono proprio un ignorante, una capra in questo, però insomma, si sta dando da fare anche su un sacco di fronti ed è un grandissimo violinista. Sì, noto che gli hai dato veramente spazio, giustamente. Sì, ma se non l'avessi dato se lo sarebbe preso. No, è che proprio il violino dava in effetti un sapore particolare. Beh, a questo sì. Brano. E, notavo che il disco, oltre ad aver scritto tutte le canzoni, te lo sei anche prodotto da solo. Sì, sì, sì, alla fine sì. Ho deciso un po' io tutti i vari arrangiamenti, quello che volevo, quello che non volevo. Insomma, tanto mi piacerebbe potermi permettere un produttore, purtroppo non potendolo fare ho fatto da solo, di testa mia. Ah, perché vedevo tutti questi nomi e così pensavo che magari avessi voluto chiedere a qualcuno di questi. No, sinceramente no. Beh, cioè, ripeto, è stata una cosa fatta tutta in amicizia, quindi poi ora con internet ti puoi chiamare uno a Chicago e fatti mandare una parte vocale, o un altro a Milano, infatti una parte di chitarra senza neanche muoverti da casa, quindi sì, ovviamente una bella comodità. Arrivano i post-it. Ah, i post-it, sì, la gente che ci sta salutando. Ah, okay, probabilmente okay. Da Facebook. Sì, da Facebook. Uno sta anche qui vicino, credo, che è Matt, che saluto, che sarò anche nel suo prossimo disco. Ma lo saluto con affetto perché è un ragazzo veramente d'oro. E poi saluto anche Antonio Zirilli, che è un carissimo amico. Ho suonato una volta con lui, abbiamo fatto un tributo a Springsteen di Roma. Lui è uno che si chiama Zirilli, sì. Non può non fare un tributo a Springsteen. No, vabbè, comunque al di là di quello, comunque non fa solo quello, perché sennò. Dai. No, è che dico, magari qualche ascoltatore non lo sa, la mamma di Bruce Springsteen si chiama Zirilli. Sì, sì, Adele Zirilli. No, lui è un rocker in piena regola, quindi non è un cugino di Springsteen di ottavo grado. A quello non me l'ha mai spiegato, quindi magari c'è una parentela, non so. Va bene. Ecco, abbiamo citato internet. Tu vedo che hai un sito internet, cesarecaruggi.com. Sì, sì, poi sì, sarai sì. Naturalmente anche su Facebook. Sì, chiaro. Quello, no, insomma, Facebook, Twitter, Reverb Nation. Tutto quello che c'è ci sono sopra. Lo diciamo per gli ascoltatori, appunto, se qualcuno vuole approfondire la conoscenza con Cesare Carugi, sì, infatti. La tecnologia ci viene incontro. Bene, io direi che potresti anche lavorare un'altra volta. Sì, sì. hai anche l'armonica, vedo, sì. Che è un classico dei... Un'armonica, la Reggio Armonica non è un granché, però insomma l'armonica per ora dura. Aspetta che cerco... Ok, lasciamogli un attimo di tempo perché la cuffia più il trespolo, come si chiama? Reggio Armonica si chiama? Reggio Armonica, sì. Pensavo avesse un nome un po' più sofisticato. Reggio Armonica da 4 euro che dura ormai da un paio d'anni, ma non so ancora... Beh, la germonica così longevo non ce l'ho mai avuto. Per 4 euro direi. Il re germonica regge, l'armonica c'è, però adesso prima di cantare dovresti annunciarci la canzone, dici che cosa, sì, di che cosa dunque, si tratta. Dunque, allora, la prossima canzone si chiama Death and Taxes. Ed è un brano che vuol dire morte e tasse. Sì, stavo pensando che stava di leggere il giornale. Beh, sì, è un brano che ho scritto e poi mi sono accorto dopo che in realtà era molto, molto attuale, no? Perché sono due cose, sono forse le due cose più sicure al mondo, no? La morte e le tasse. Diciamo che alle tasse qualcuno riesce a scappare, alla morte un po' sì, meno. Sì, sì, sulle tasse ancora c'è qualche, però insomma dall'altra parte... Qualche spiraglio, qualche sulla morte... No, lì non ci sono spiragli, quindi... La dilazione, ma insomma... Niente, questa è Death in Texas, forse il brano più soul del disco, perché è un brano che comunque ho voluto dare un'impronta molto soul, c'è un piano elettrico, io non mi intendo di pianoforti, però deve essere un Wurlitzer, non so come si chiami, Wurlitzer mi sembra, suonato da Gianfilippo Boni, che è anche il ragazzo che ha mixato il disco, quindi niente. Death in Texas, sempre da Cesare Carugi, siamo dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. What it took to believe in everything I had, what it took to know, to understand all use ever takes in case you don't die tomorrow. Down the road is long and I'm no longer awake to drive on, but I need some rest. Every time you wake up, you wish something else than the things you already had. I spoke to the ghosts that still crawl along the wall of my house and warmed up the room. I sold my past to a merchant of slaves from Mexico. Thought it all would have been smooth. I still don't know where to go, cause my lies in the sand have been already traced before. I still don't know where to go, cause there's nothing sure in this world. It's death and taxes. Talk about mountains and plains, rivers and sea, as if we talk about for the dreams. But I always said we would roll, joy while it lasts, as it never does, it's not what it seems. But ties me as a loser on the backseat of a dusty Oldsmobile, the car wreck is playing. Grew up through the streets, of a town called nowhere. Didn't know my name. Didn't know my name. I still don't know where to go. Cause my footsteps on the shoreline have been already done before. I still don't know where to go. Cause there's nothing sure in this world. So death and taxis. Death and taxis. Sooner or later I'm gonna face the train, like a hitchhiker with no place to stay. I'm gonna throw all those compromises away, and we're gonna meet drunk and free at Hell's Gate. What you get and what you have, what you get ain't what you really want. What you get ain't what you can really do. What you get ain't what you really are. What you really are, I still don't know where to go. Cause my lines in the sand have been already traced before. I still don't know where to go. Cause there's nothing sure in this world. So death and taxis. Death and taxis. Death and Taxes, morte e tasse, appunto, diciamo di nuovo la traduzione. E, prima hai detto appunto che c'erano canzoni vecchie che hai scritto in passato, con magari delle liriche, dei testi non perfetti. Comunque hai sempre scritto in inglese, anche quando magari sì, non ti sentivi. Sì, sì, sì. Io ho provato a scrivere una cosa in italiano. Era una cosa abominevole, veramente, guarda, sembrava un copione per il Grande Fratello, perché guarda, era davvero impronunciabile. Sì, sì, sì, sì. Ho provato anche a fare un po' il poeta, in un certo senso, ma veniamo fuori dei luoghi comuni, di una banalità assurda. Infatti, per quello che ho deciso proprio di scrivere in inglese, perché, cioè, se devo essere banale, almeno in inglese mi riesce bene. Quindi. Appunto, è quello che mi sto chiedendo, come, che differenza trovi fra scrivere lo stesso concetto in italiano o in inglese? In inglese è più universale, cioè è proprio una questione di praticità, è una cosa più universale l'inglese, quindi lo puoi risvoltolare un po' come ti pare. Poi mi sono accorto strada facendo che le rime non sono in tutte le lingue, non sono le stesse cose, nel senso che in inglese trovi, per fare una rima trovi altre 10.000 parole, in italiano ne sono 3 le parole che fanno rima con un'altra, molte delle quali poi non c'entrano niente. Quindi sarebbe troppo facile. Perché, per esempio, una rima con Coca-Cola, cosa fai con Coca-Cola? Devo anche rispondere. Pianola. Aiuola. Cioè, capito? Aiuola, sì. Quindi, niente, mi trovo molto più a mio agio. Poi ho sempre ascoltato comunque musica americana, cioè comunque la musica italiana, pur avendola ascoltata tanto, però ho sempre dato molto più spazio a quella americana. Era stata anche una questione di abitudine. Quindi, poi magari un giorno, che ne so, magari lancio il guanto di sfida e scrivo qualcosa in italiano, però non lo so, non mi attrae più di tanto, cioè l'inglese riesco più a entrare nella canzone, quindi poi anche una questione di come ti ci senti dentro, capito? Magari l'inglese può essere anche più facile se, per cercare di suonare magari qualche volta fuori dall'Italia. Sì, ma non è che ci sia più questo, è proprio anche una questione di sentirsela addosso, cioè come se a me mi dessero una giacca alla Tony Manero, io non me la sentirei addosso, anche perché insomma, quindi è uguale con la lingua italiana nella musica. Io sono contento così, con questa formula qua, perché me la sento cucita addosso. Passiamo al prossimo brano che hai scelto dal disco. Questo è un pezzo importante sia per il titolo, che mi intriga molto, Da Coral Lights and the Man Who Shot John Lennon. Da Coral Lights, le luci sono del palazzo. Dakota, sì, l'edificio dove fu ucciso John Lennon, sì, sì. Davanti al quale, dove abitava e dove fu ucciso. E questo è un brano che vede la partecipazione di Michael McDermott, sì, che è un musicista, stavamo parlando prima fuori onda, io ho seguito molto all'inizio della carriera, poi era un po' scomparso, diciamo, sì, dalle luci, sì, dei, sì, riflettori, sì, sì, sì. Adesso mi dicevi, insomma, che tu lo conosci piuttosto bene, quindi un carissimo amico, è una persona con grande generosità, io lo reputo anche una grossa ispirazione per la musica che faccio tuttora, perché comunque è un musicista che lo vedi, cioè che scrive di continuo a getto, e poi è una persona molto sensibile, quindi è una grossa ispirazione anche per me, e un grosso onore soprattutto averlo avuto lì, che per fortuna, insomma, in amicizia si riesce anche a fare cose che magari sembrano impensabili, però cioè, va oltre le case discografiche, va oltre, che ne so, i soldi, quello che è, insomma. Quindi sì, è stato un grosso piacere averlo dentro, e una grossa sorpresa anche per me, perché magari non ero troppo ottimista, però invece alla fine ci sono riuscito senza nemmeno dovermi sudare la camicia, insomma. Ma gli americani sono spesso così, comunque. Sì, infatti. Ho avuto anche altri musicisti che hanno avuto occasioni simili. Valerio Billeri, nel suo ultimo disco, c'è una canzone di Willie Nile, me lo diceva appunto 10 giorni fa, quando è stato mio ospite, e diceva appunto che ha fatto questo disco che è di beneficenza, e ha chiesto a Willie, ma sai, magari se tu avessi una canzone, e Willie Nile ha detto, c'ho questa, prendila, fai quello che vuoi, proprio. Sì, stai parlando anche di un altro musicista, con un altro musicista più generoso che abbiamo conosciuto, cioè Willie Nile, che è un caro amico, e anche lui che saluto, e anche lui, sì lo so, lui si svenerebbe probabilmente, sì, beh, quindi quando è stato mio ospite Willy doveva fare una sessione acustica, è andata a finire che ha chiamato gli altri della band, è venuto fuori un concerto. Sì, immagino. Qui dentro, va bene, allora ci ascoltiamo questo brano che è The Coral Lights and the Man Who Shot John Lennon, sempre da Cesare Carugi. This kiss is signed. I'll slip out into the night. The overcoat keeps me away from cold. New York City in the winter is so beautiful. Dorothy came to town. Yes, she was eastward bound. She talked in those long nights near a crossroad in the Upper West Side. She was skating gracefully on the floor. system for about 10 minutes or more. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Bene, questo era un brano ispirato a quello che è successo al Dakota Building. Sì, no, era ispirato soprattutto all'assassino di John Lennon, perché comunque si parla tanto, no, di John Lennon. Chapman si chiamava, Mark David Chapman. Io poi sono anche, c'ho anche una mezza passione per la criminologia, una passione recondita di vecchia data, quindi ho avuto questa idea, cioè proprio l'8 gennaio 2010 l'ho scritto quello. Ah, quindi 30 anni dopo, proprio me lo ricordo, perché dovevo andare a una cena, insomma, mi presi questo quarto d'ora sabbatico, scrissi il pezzo e poi andai a cena fuori. Così di getto. Sì, sì. Di Chapman ho letto recentemente che il giudice ha respinto l'istanza del suo avvocato per la scarcerazione. Sì, sì. Ma il giudice è stato molto intelligente, ha detto che lo tiene in carcere per la sua sicurezza. Sì, infatti, perché sì, aveva, sì, ricevuto, sì, centinaia di lettere di ammiratori di John Lennon che dicevano al giudice: sì, sì, fatelo uscire, è vero, lo aspettiamo, è vero, fuori. È vero. In effetti è uno che rischia. Ah, ma lui credo che mandi un'istanza, cioè comunque ogni anno, credo, però gliela rifiutano sistematicamente, perché proprio per questa cosa che rischia veramente la vita. Sì, in effetti, diciamo, non è che voglio giustificare i fan di Lennon, però insomma, riesco a capirli, ecco, quantomeno. Beh, io non sono un fanatico a tal punto, quindi no, non capirei neanche, però. Cioè, non, sono cose che comunque non capisco a prescindere, quindi niente. Diciamo, poter diventare famoso anche se avesse ammazzato un boss della mafia, per dire. Ma magari sì. Forse era un obiettivo meno inerme del povero. Magari sì, no, Non. Comunque, dicevo, le ragioni sono altre, quindi, però non ci stiamo a dilungare su questa cosa, perché comunque si tocca la religione, si tocca un sacco di... la schizofrenia. Jodie Foster, sì. Bene, visto che abbiamo ancora 37-38 minuti, io direi, se ti va bene, mi dicevi che hai anche un paio di pezzi inediti che, sì. Che hai portato qui per farci sentire, per cui noi abbiamo piacere, anche perché sai, la parte live è quella più succosa, ecco, quella più... Ok. Perché noi diciamo delle cose molto intelligenti sicuramente, soprattutto tu, ma penso che gli ascoltatori gradiscano di più ascoltare la musica. Va bene, verranno accontentati. Dunque, allora, vado con l'inedito oppure con... Vai con quello che vuoi tu. Con quello che voglio io. Assolutamente. Ok, allora facciamo quel pezzo di cui abbiamo parlato prima, che è Goodbye Graceland. Poi magari gli altri li facciamo. Mi è piaciuto il facciamo, io ascolto. Sì, facciamo, perché lavoro di squadra. Ok, hai tutto il supporto. Sì. Niente, questa è Goodbye Graceland, l'ho già presentata prima, insomma, ambientata a Nashville, a Memphis, vabbè, sempre Tennessee, comunque a Memphis. È un brano che è un po' musicalmente ispirato un po' ai Clash, infatti sentirai, insomma, che a parte l'avrai già sentita, credo, sul disco, quindi Goodbye Graceland. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. It's only tears, not a rain, but falling down on the same grave. They can't keep the candles lit up today. Just when you pass through the open gate, you can find the word to think or say. There's only silence along the pathway. There's a ghost by the door, crawling out on the floor. He's in the lobby, he's along the wall. He pours a drink to you in the upstairs room. He swims in the outdoor pool. There's a tear on the bed, baby's eyes from a picture in a frame. There's a loneliness as if someone's gone again. Tonight fetuses behind the fence. Now there's some kind of difference around the band. No more letters, the breast kisses to send. She went free on the mile with no more tears in her eyes, but she'll be always in your mind. Slowly without a sound, the snowman is melting down. In the garden there ain't nothing around, round, round, round. Silver and gold along the wall, and pieces of life scattered in the hole. The moonshine breaks through the window. Old dried leaves to sweep away. The gates creak, the guard waits to be paid. It's only tears and autumn rain. Goodbye, baby, goodbye. Goodbye, blue pearl sky. Let your glorious light shine tonight. I see you hide from the road, from another world. May your grace be intact through the wind and the storm. I see you in another song. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Graceland era il titolo di questo brano. Vi ricordo, questa è Blu Radio Veneto, Rock Wave. Con noi in studio questa sera Cesare Carugi, che si è appena esibito dal vivo. Fa un po' caldo qua. Sì, fa un po' caldo. Sì. Ma io sono un caso a parte per il caldo, quindi... Gli studi radiofonici notoriamente sono un po' caldini, l'ambiente non è molto grande, quindi... ho visto che nel disco ci sono dei brani in cui suoni quasi tutto tranne la batteria. Sì, sì, anche lì è proprio una questione... andiamo al risparmio, non, male, non pretendevo grosse cose, quindi ho detto vabbè, suono anche il basso, così tanto... Chi fa da sé fa per sì, tre. Sì, infatti, insomma, infatti. E, parlando un po' di esibizioni dal vivo, tu stai cercando di presentare il disco, sì, certo, suonando certo, in giro, immagino, hai in previsione passare dalle nostre parti magari o... Non c'è niente di fissato al momento. Dunque, dovrei fare un attimo mente locale. Comunque, dunque, la prossima serata, sì, in effetti sarà a provincia di Bologna, a Dozza, nel Teatro Comunale di Dozza, che sarà un opening act, quindi saranno 6-7 pezzi, credo. Comunque, però è un evento da tenere di conto, perché aprirò per Dirk Hamilton, che è un grandissimo cantautore americano, texano, ormai ha 40 anni di carriera sulle spalle, che suonerà al teatro, quindi io aprirò il suo show. Poi sarò a Reggio Emilia, il 31 di marzo, è marzo, sì. Sì, sì, confermo. Il 31 di marzo sarò a Reggio Emilia al Club 2 di Picche, e poi per aprile ci sono altre delle date, insomma, ancora in fase embrionale, però di confermato, per esempio, c'è il Duca Bianco a Guastalla, che anche quello è vicino a Reggio Emilia, il 21 di aprile, e poi per maggio ci saranno ancora degli show con Riccardo Maffoni, visto che abbiamo messo su questo double show molto divertente, un po' sullo stile Dylan, Knopfler, cose del genere. Ma suonate anche insieme? Insieme, alla fine sì, c'è questa jam finale molto allegorica insieme. È una cosa molto divertente, comunque una cosa in nome fra virgolette dell'amicizia, quindi ci piace un po' coinvolgere il pubblico anche su questo, diciamo che ci stiamo divertendo noi, si devono divertire anche loro, quindi saremo a Torino al magazzino di Gilgamesh il 4 maggio. Un po' fuori mano, un po' fuori mano a Torino, però insomma. Poi, comunque siamo in costante aggiornamento, quindi sicché sono in costante aggiornamento, quindi anche domani potrebbe uscire fuori una data, magari, e nessuno lo sa. Comunque invito a controllare il sito Facebook, cose varie, così almeno uno è sempre aggiornato. Ti vedo molto puntato su internet, insomma, mi pare che sia una mano santa per i musicisti. Sì, ora come ora sì. Un tempo mi ricordo le televisioni facevano le pubblicità dei dischi, ora non più, ora fai tutto su internet, perché se non sei a dei livelli particolarmente stratosferici, livelli di pubblicità, non tanto di qualità, però purtroppo ora internet è diventata una cosa irrinunciabile per uno come me, ma anche meglio di me, cioè comunque anche i grandi si attaccano a internet per pubblicizzare i loro lavori, quindi... Dopo magari i grandi hanno anche i lati negativi, perché il nuovo disco di Springsteen era in download illegale due sì, settimane chiaro, prima della pubblicazione, sì, vabbè. Che forse non era il massimo. Io ho fatto il download, io lo ammetto, però l'ho anche comprato, in versione limitata, quindi ho speso anche più del dovuto. Siamo nella stessa barca, ecco. Per cui vedi... È abbastanza normale. No, è una cosa per la curiosità, penso che l'abbiano fatto un po' tutti. Poi se un po' magari a qualcuno non è piaciuto e non l'ha comprato. Quindi c'è anche il risvolto in un mondo in crisi come ora, quindi ogni centesimo va centellinato. Chiaramente. Anche se io dico sempre, insomma, che piuttosto di comprare un disco andate a vedere il musicista dal vivo. Sì, infatti, poi, è molto importante. E poi nel caso il disco lo si può comprare direttamente dal musicista. Infatti, infatti è una cosa che va fatta più spesso, anche perché ne parlavo l'altro giorno con un mio amico che è un giornalista, anche si parlava di recensioni, e chi recensisce spesso e volentieri oggi non ha mai visto chi recensisce dal vivo, e quindi... perde un po' un attimo la magari, non lo so, la personalità dell'artista va un po' scemando, quindi a volte è più importante andare a vedere un concerto piuttosto che fare una recensione, perché si colgono delle sfumature che su un disco a casa col whisky o con la Coca-Cola in mano o le pantofole non si colgono. Quindi sì, poi c'è anche il fatto che non è il caso del tuo disco, che come hai già ripetutamente detto è stato fatto, diciamo, in maniera un po' ruspante, grezza. Ma in altri casi, insomma, sappiamo che quello che si sente sul disco è un prodotto di pura astrazione. Nel senso, adesso non dico che potrei farlo anch'io un disco avendo i soldi, ma ci andiamo vicini probabilmente, insomma. Sì, sai, oggi poi sì, oggi comunque al mondo d'oggi tantissimi dischi, tipo i Foo Fighters ad esempio, hanno fatto un disco in garage, l'ultimo l'hanno fatto in garage, a parte il garage di Dave Grohl non è il mio garage, immagino, anche perché però ci sarà una Ferrari, perché ecco, già infatti io da me c'è la Vespa lui no, ma tu stai a Cecina, puoi girare in Vespa tutto l'anno, sei al mare. Comunque sì, cioè, al giorno d'oggi comunque visto ci sono un sacco di programmi che con i quali puoi fare benissimo delle registrazioni, poi però la differenza la fa quello che viene dopo, la post produzione, quella è la differenza, il mastering, il mixaggio, quelli sono quelli che te lo fanno diventare un prodotto veramente. E per quello ti sei appoggiato ad altri? Sì, sì, chiaramente sì, lì sì, però ho avuto la fortuna di lavorare con della gente con un bel paio di attributi, veramente brava, che Tommy Bianchi di Scandici, che mi ha fatto il mastering. Ho anche fatto mastering per Battiato, per Elio Storitese, per i Marlene Kunz, ora l'ultimo disco il mastering l'ha fatto lui, il mixaggio me l'ha fatto Gianfilippo Boni, che ha già mixato comunque dischi di Giorgia Del Mese, Massimiliano La Rocca, e poi è anche un amico, quindi insomma, lavorare insieme è stato facile, perché insomma, ci conosciamo, senza nulla togliere chiaramente a quello che è successo prima. Chiaro. Gli il garage, le chitarre, le batterie, insomma. Ci canti un'altra canzone, sì. Visto che hai lì pronti c'ho anche degli inediti, perché spesso e volentieri comunque, però me li porto dietro, sì, c'ho dei testi scritti, perché sono, la mia memoria è un po', non lo so, è imprevedibile, quindi ho preferito portarmi il testo dietro. Non ti fidi al 100%? No, assolutamente no. E, trattandosi di un brano inedito, immagino che sia stato scritto dopo l'uscita del disco. È scritto 10 giorni fa. Ah, ok, quindi 10 giorni fa, però è già entrato in lista per magari per un prossimo lavoro. È un brano che parla di questi brani tristi, comunque questo è un brano che parla del rapporto che c'è fra la droga e la religione, perché è un brano, sì, molto un po' cupo, però rende bene l'idea un po' di quello che è il cadere e il resuscitare, diciamo. Quindi è un brano che ho fatto con molta sofferenza nel cuore, cioè, sicché è un brano che mi piacerebbe incidere magari prossimamente su un disco, che si chiama Those Long Nights Awake, queste lunghe notti sveglio. Ok, allora ci ascoltiamo questo, è la prima volta che lo suoni in radio? In radio sì, assolutamente sì, dal vivo l'ho suonato una volta sola sabato scorso. Vabbè, ci hai tolto l'esclusiva per poco. Ma per pochi l'ho suonato, sì, che va bene. Ok, allora Those Long Nights Awake, sempre Cesare Carugi dal vivo qui con noi a Rockwave. Noises enemy, the song don't stop. Nobody is listening. everybody's singing now. Need to close the door, ignore the restless wind. The distractions I can't afford become an endless cavalry. Wine still in the glass, my hair are matted now. The winter makes me sweat, my throat's dry anyhow. Little button gasps, the silly moves around. But satellite of day reminds you where you're bound. There in the darkness my dreams live hanging down. When the truth is dying, all that we're now. If I had a cross, I won't kneel down and pray. I see your face on those long nights away. Read my heart and soul, faked them, and then released. In the leading role of a man who ain't me. Sir, don't blame me if I look sullen through the shadows of the night. I gotta find a way to feel myself out of sight. Looking for redemption, but it's too much for me. Stay quiet, wait a little bit more and stay still. Afraid to fall and die from the open space. I see your face on those long nights away. Every sound is louder, faster my heart goes. You clench your fist, tussling your hair, and another pleading, oh no. The sun is rising up, and you ain't slept a wink. So you drown agonizing in the daylight stink. Soldier from a lost war to the city street, staggering between regrets and caffeine. Give me back my money, give me back my faith. I see your face on those long nights away. Bene, abbiamo allora avuto l'onore di sentire questo nuovo brano. Inedito. Forse è un po' presto però per parlare di un nuovo disco, no? Sì, no, ne parlavamo prima. Il problema è che io ho già circa 18-20 pezzi pronti per un nuovo disco. Se aspetto ancora diventeranno 40-50, allora faremo gli archivi come Neil Young. Pensato sì. Che Neil Young ha fatto magari gli archivi dal 1969 all'80, io li faccio dal 2011 al 2012. No, no, penso il prossimo anno comincerò a fare qualcosa di nuovo, se la dea ben data magari mi desse anche qualche possibilità, insomma, economica, se tutto va bene, insomma, si parte il prossimo anno, quindi sai, purtroppo ho un affitto da pagare, ho tante cose insomma, in ballo. Come tanti altri. Infatti. Ma, qui non capisco bene, l'etichetta discografica non riesco a leggere. Roots Music Club. Ah, ok, RMC, sì, sì, sì. Perché... RMC è anche l'acronimo di una radio. Sì, lo so, infatti. Però vabbè, il logo... Okay, Roots Music Club, che è una sponsorizzazione più che un'etichetta, poi c'è CD Baby per il download digitale, e per la distribuzione è la IRD, che okay, è l'International Record Distribution, che distribuisce il disco nei negozi, quindi per chiunque volesse comprarlo può andare in un negozio, magari dicendo che lo distribuisce la IRD, perché... non tutti lo sanno. Sì, è che appunto i negozi di dischi sappiamo che sono un sì, po'. Non fai vendite dirette dal sito internet? Sì, sì, sì. Uno può ordinarlo anche sul mio sito, via PayPal, però, cioè, quindi il pagamento avviene via PayPal, o altrimenti chiaramente ai concerti. Vabbè, io personalmente cerco sempre di comprare i dischi direttamente dal sito del musicista. Se è possibile, chiaramente non quello di Springsteen, non mi farei mai caso, ma diciamo quando si parla di musicisti indipendenti, siccome so come funzionano le cose, dal punto di vista economico per il musicista è sempre meglio la vendita diretta, chiaramente senza intermediari, come comprare la frutta, la verdura sì, no, del contadino. Poi il disco chiaramente si può trovare, si può acquistare anche per chi come tanti oggi hanno, non hanno più il lettore di CD, hanno l'iPod, come si chiama, gli MP3, uno se proprio deve può scaricarlo da iTunes, da Amazon, da CD Baby, insomma ci sono tanti canali dove si può scaricare il disco, chiaramente a pagamento, costa un po' meno magari della copia fisica, però anche la qualità è molto minore. Sì, ci sono anche i file, quelli FLAC o GG. Che sì, ce ne sono un sacco, io non mi ci addentro perché sono già la qualità da CD, ma io sono sì, ancora legato a, infatti, finché me ne stanno in casa, alla copia fisica, certo. Poco no, ma insomma. E poi sono belli anche a vedersi, dai, ci sono i testi dentro. Ci sono, sì, beh, insomma, non tanto le mie foto, quanto insomma i testi. Qualcosa da tenere in mano. Sì, infatti. Allora, ci ascoltiamo adesso un ultimo estratto dall'album, credo, sì, ma insomma forse il penultimo, vediamo, che è quel brano che abbiamo citato prima, che parla della pioggia di Londra. Sì, sì, sì, è un brano che parla di una ragazza, che questo forse è un brano nato dall'Italia, perché parla proprio di una ragazza italiana che va in Inghilterra a cercare fortuna, quando poi in realtà alla fine si accorge che la fortuna poi te la crei, e quindi alla fine si ritrova con una grande nostalgia di casa e basta, perché passa davanti a una casa nel periodo natalizio e vede un po' questa famigliola felice, in realtà lei poi lì è sola, quindi una storia un po' malinconica su Londra, un brano chiaramente ispirato poi alla musica inglese degli anni 80, quindi anche un po' al punk degli anni 80, sono queste chitarre elettriche, però insomma un brano dove ho suonato quasi tutto io, quindi se sentite delle cose strane sono io a parte la batteria, e niente, insomma, London Rain per molti è uno dei brani migliori del disco, comunque sì, no, è un brano molto molto stimolante, diciamo. Accattivante. Bene, allora ce lo ascoltiamo dall'album, che vi ricordo si intitola Here's to the Road di Cesare Carugia. All the dimes in the pocket seem so useless tonight. They're gonna offer her the dream. Sing the tune pressed on her lips. Cold slams like the church doors in the coldest winter wind. You can hear her down the street while your heart keeps standing still. And the London rain off of London is not rain. And the London rain off of London is not rain. Mm-hmm. There's too much of nothing tonight. Too many shadows on the wall. Too many ghosts meant to remind the things she doesn't care at all. The heights of lust, love in the corner of a cobblestone down the street. I know she suffers much, but in this she's not sympathized with. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. Wherever she may hide, the past knocks on her door. Wherever she should walk, she can find the rainbow who falls to London. Wall is clean, the house is warm, the fireplace crackles low. A wife, a husband and a son. Christmas decoration on the door. Now she's wondering what she left, what maybe won't come back. Wondering if she's missed, wondering if she missed the things she had. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. And the London rain of a London is not rain. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. E questa era London Rain. Sì, Londra è sempre in effetti collegata alla pioggia. Sì, infatti è venuta così, London Rain. Ma non è ispirata a una ragazza che conosci direttamente? No, diciamo. È ispirata a una, sì, una storia, una vecchissima storia, però poi le cose non sono andate proprio come erano. Però l'idea mi è venuta proprio da questa persona che non conoscevo di persona, ma solo perché era amica di amici, che era andata in Inghilterra. Quindi c'è un'ispirazione reale, ce però ne sono tante. Solo, sì, infatti ce ne sono tantissime, quindi alla fine è una storia inventata, alla fine sì, c'è questa base di partenza, ma è soltanto un'ispirazione, diciamo. Sì, una piccola idea, diciamo. Allora, noi stavamo parlando con Cesare mentre andava il brano, che ci sarebbe tempo anche per due canzoni, se ce la facciamo, se ce la fai tu, io non ho problemi, no, anche, insomma, diciamo che la parte live è il cuore di questi appuntamenti musicali, quindi gli diamo l'importanza che merita. Come dicevi tu, musicista bisognerebbe vederlo dal vivo, magari in questo caso non ti vedono, ma anche se forse c'è la webcam, non so, ma ti sentono. Chi ascolta sa che qui non abbiamo apparecchiature sofisticate, ci sono dei microfoni e un mixer, per cui quello che sentono quello che nelle loro case è esattamente quello che esce dalla tua chitarra e dalla tua ugola. D'accordo, allora niente, allora vado subito a razzo su questa. Anche questo è un inedito che ho scritto la scorsa estate, ed è un pezzo che è ispirato a una mia carissima amica che ebbe dei problemi di salute quando lo scrissi, e la cosa, insomma, mi ha colpito abbastanza, quindi scrissi questo pezzo che si chiama Your Memory Shall Drive Me Home, un pezzo inedito che sarà sicuramente in un futuro lavoro, anche perché c'è un pezzo che qui tengo personalmente in maniera abbastanza particolare, e niente, insomma, ce lo fai ascoltare. Sì, lo facciamo, okay? Benissimo, grazie. Thank you. Nothing's changed at the break of noon. Once more I leave town on the sly. I turn the key and I let the engine run. And now I ain't got nobody by my side. I kick the dust, but I only got a spring. I know you can hear me, girl. Now the road is dark. Your memory shall drive me home. Well, the ghosts moved on the fast lane. We looked the riser till they ruined it all. It's just another night on the borderline. Another couple drinks just to fall. Across the river, the moon is blue and blind. I got dry leaves in my throat. I can't see light, but your memory shall drive me home. Oh, oh, oh. The road is dark, but your memory shall drive me home. Oh, oh, oh, I can't see lights, but your memory shall drive me home. Same time for broken bottles and $2 for a loaded gun. The train staggers at sunrise and takes you away from the dawn. But to what you're looking for, good luck, honey, goodbye. Say goodbye to what you're looking for, good luck, honey, goodbye. Hey, hey, hey, hey. Whoa, oh, oh. The road is dark and your memory shows. Your memory shall drive me home. Okay. Il tuo ricordo mi ricondurrà a casa. Sì, okay. Non ce l'ho qui sotto, sì. Sotto gli occhi. Hai detto che il pezzo l'hai scritto la scorsa estate, quindi quando stavi estate. Facendo il disco praticamente. Sì, però avevo già finito le registrazioni, dovevo solo mixare. Ah, okay. Allora era un po' troppo tardi per infilarlo di soppiatto. Quindi... Va bene, insomma, giustamente, te lo tieni in, lo tengo in tasca, in tasca sì, sì, per, sì, la, sì. Per, la prossima, per il prossimo giro, il sì, prossimo sì, disco. Sì, sì, sì, sì, sì. Bene, siamo alla fine di questo appuntamento con Cesare Carugi, che ci ha fatto il piacere di venire a trovarci qui nei nostri studi. Anzi, grazie a voi. Sei il benvenuto. Naturalmente ti aspettiamo per il prossimo disco quando sarà. Volentieri, faccio vivo io. Giustamente. A proposito di farti vivo, speriamo che tu possa suonare dal vivo qui, insomma, speriamo, sì, sì, spero. In Veneto, da qualche parte. Accetto bene o male tutte le proposte. Va bene, quindi... speriamo che qualcuno sia all'ascolto. Vi ricordo il titolo del suo disco: Here's to the Road. The Road. www.cesarecaruggi.it .com, scusa perché è scritto piccolo, io sono un po' lontano, ok? Ma punto it è troppo italiano. Giusto, giusto. cesarecaruggi.com per le date dei concerti, per acquistare il disco. E... Se Facebook, se no, Twitter. Di Twitter non ci sto molto, però cioè Facebook, Reverb Nation, MySpace, sì, è quello che durerà MySpace. Comunque. Ma lo stanno rilanciando, ho letto. Lo Justin Timberlake l'ha comprato. Non è, è vero, no, non perché è una... si sta, sì, sì, all'inizio era una bomba, poi ora è diventato una cosa ingestibile. Comunque. Infatti, lui assicura che lo rilancerà perché okay. Lui è un musicista, ha detto, e quindi sa come. Non so, fa ridere un po' anche a me questa cosa. Bene, per augurare buonanotte ai nostri ascoltatori, che pezzo hai scelto? Faccio il pezzo che chiude il disco, quindi la migliore buonanotte. Cumberland, che è un brano che faccio un duetto con Massimiliano La Rocca, che è un carissimo amico di Firenze, un grandissimo musicista. E, Cumberland è il fiume che attraversa Nashville. Ah. Quindi questo brano è nato ai tempi, successo 2 anni fa, l'alluvione che ha colpito Nashville. Un bel po' dopo Katrina è successo, comunque è successo un paio di anni fa, abbastanza, avendo tanti amici a Nashville, comunque ho voluto anche pensare un po' alla situazione loro, quindi Cumberland è un po' come il fiume va in mare e sparisce, anche il disco va dalla buonanotte a tutti, diciamo. E va a chiudersi, insomma. Bene, allora grazie ancora Cesare, chiudiamo qui questo appuntamento con Rockwave, con la versione dal vivo di Cumberland. E buonanotte a tutti. Buonanotte. E alla prossima. Beneath the bridge, even if the night calls out with nothing to say, smell of white roses, sit down to watch, background fireflies dodging the thorns. Ah, ah, ah, ah. Starry in the summer wraps around like a veil. Though the night is spooky, there's no home safe as there. Sweet old companions, time's slowly gone. We capture the magic in the lonely edge of the shore. Ah, ah, ah, ah, ah. To skim over you with my fingertips, as lullabies fading beneath me to see the cry of a coyote disappeared in the wind. Ah, ah, ah. Ah. Ah. Ah.